Daniele Timpano ed Elvira Frosini che saranno al Teatro India con alcuni dei loro lavori dal 28, cioè da oggi martedì 28 febbraio fino al 5 marzo. Intanto ben ritrovati su queste frequenze. Sì, grazie, ben ritrovati anche voi, buongiorno Rosso, Radio Onda Rossa, eccoci, siamo Elvira e Daniele, okay. Daniele e Elvira, allora, sto parlando io che sono Daniele. Esatto, vi alternerete nelle risposte, intanto vi chiedo come nasce questa occasione questa di portare in scena alcuni vostri lavori in conseguenzialità. Allora diciamo che nasce, chiaramente da era un nostro desiderio, una cosa che ci fa molto piacere, siamo molto contenti, ma nasce da una richiesta del Teatro di Roma, diciamo di dare di oltre al certificare pare brutto, però diciamo di accogliere diciamo un percorso che è il nostro, quello mio e di Elvira, in particolare quello degli ultimi 6 anni, perché dal 2012 sono tutti gli spettacoli dal 2012 ad oggi tranne uno, quelli che presenteremo ad India. Diciamo io l'idea era quella appunto di invece di due semplici repliche dell'ultimo spettacolo che aveva già debuttato a Roma Europa in novembre Acqua di Colonia, cioè di estendere appunto uno sguardo sul percorso, insomma che comprendesse 4 spettacoli, cioè sostanzialmente il miglior monologo di Timpano, il miglior monologo della Frosini e secondo noi i nostri 2 migliori spettacoli insieme, che sono Acqua di Colonia l'ultimo e Zombitudine. Quindi un the best of. Elvira, ci sei? Sì, Elvira c'è, te la passo subito. Okay. Poi sì, ci sono. Allora, ciao. Elvira, a proposito di questi 6 anni, cosa hanno rappresentato nel vostro percorso? Guarda, sono stati importanti perché ci hanno cambiato tante cose, nel senso noi facciamo un percorso personale, singolare, diciamo, ognuno nel proprio. Infatti siamo, questo incontro in realtà poi ha messo in comune tante cose che avevamo già in comune, e però ci siamo scambiati anche tante nostre particolarità a livello di linguaggio, di curiosità, di interesse, eccetera. Per cui questo ha significato per noi, almeno sicuramente per me, ma anche per Daniele, penso di poter parlare a nome suo, una crescita, cioè siamo contenti. E poi è stato anche un po' un miracolo, diciamolo, perché non è semplice lavorare insieme, scrivere insieme, cioè poi in questo caso, nel nostro caso, stare insieme anche nella vita, quindi insomma potrebbe essere una miscela esplosiva, invece miracolosamente funziona. Quindi tenere i nostri spettacoli in repertorio, anche quelli precedenti alla nostra unione, anzi lavorarci di nuovo, quindi tenere 7-8 spettacoli in repertorio, fare tournée, andare in giro, fare laboratori, no, per noi ha significato un rafforzamento, ecco. Sì, sicuramente sì, questo. Allora Daniele, invece ti chiedo rispetto alle tematiche dei vostri ultimi lavori. Sì, qual è la domanda, scusi? Vabbè, per chi non li conoscesse diamo anche un'informazione in tal senso, e poi volevo sapere anche come si è indirizzato il vostro interesse proprio rispetto alle tematiche che avete scelto. Quindi la domanda è tematiche e su perché e sul perché o in che modo. Certo. Allora gli spettacoli affrontano parlo di quelli in particolare presenti in questa personale, così ricordo anche le date, perché la personale, il ritratto d'artista si chiama, arriva da inizia oggi 28 martedì e finisce domenica 5. L'unico spettacolo che replica più volte è Acqua di Colonia, che è da stasera a giovedì. Ed è la tematica di questo argomento, di questo spettacolo, è una tematica diciamo storica tra virgolette, nel senso che l'argomento dello spettacolo è il colonialismo italiano, questi 60 anni di, diciamo, di esperienza coloniale italiana in Libia, Eritrea, Somalia e Etiopia, l'immaginario sull'Africa, che è anche un po' un immaginario di preconcetto, superiorità dell'europeo rispetto a rispetto all'altro, diciamo, ed è un immaginario anche pieno di stereotipi, insomma, tutta una serie di cose di cui, diciamo, spesso non ci rendiamo neanche conto. Infatti lo spettacolo è, diciamo, in parte parla dell'aspetto storico, cioè appunto questi 60 anni di storia italiana, un po' rimossi nella coscienza, diciamo, media, dell'italiano medio, ma anche se molto conosciuti da pochi e a veritissimi storici, insomma, chiaramente il suo legarsi, diciamo, non deterministicamente, ma evidentemente con il presente, semplificando, insomma, voglio dire, con i migranti, se vogliamo dire, con il cosiddetto, tra virgolette, problema dei migranti, nel senso, sulla percezione anche che in parte ovviamente è falsata, cioè, però è di, diciamo, del ritorno dell'ex colonizzato nel paese dei colonizzatori, quasi come fosse una nemesi, tra virgolette, anche se questa è una versione deformata, che è in parte falsa, però in realtà è anche abbastanza diffusa. E quindi l'argomento della tematica di Acque alle Colonie è più o meno questa. Il 3 marzo c'è Aldo Morto, che è sempre un argomento pseudostorico, visto quindi Aldo Moro, le Brigate Rosse, la lotta armata, gli anni 70, raccontato da un punto di vista che in parte dal punto di vista di chi guarda questi, insomma, di chi guarda agli anni 70 come dal punto di vista di adesso, cioè dal presente, cioè da un presente che è un po' impantanato politicamente, ti sembra un certo senso di impotenza a far qualunque cosa, settimane a parlare delle scissioni del PD, mentre il paese sprofonda nel nulla, parla di questa sensazione di impotenza, eccetera, attraverso il filtro degli anni 70. Sto spiegando molto di corsa, ma spero. Sì. Peter Sells, sabato 4, è uno spettacolo che parla del mangiare, del cibo, del rito intorno al della ritualità del mangiare, della perdita di ritualità del mangiare, anche dell'atto del mangiare, come di qualunque altra cosa, diciamo, nel nostro mondo da adesso. E implica tantissime cose, di consumo, di una parte del mondo ricca, una parte del mondo povera, di accumulo, di horror vacui, di horror vacui della nostra, diciamo, società, e mescola un po' tutti i lacerti di tutta la nostra anche cultura, cioè il testo di questo spettacolo, cioè, nel senso, c'è stata dalla dal presepe napoletano al cibo di fast food, alla messa, è tutto un incrocio, una marmellata di cose, insomma, che attraversano il corpo e la voce di Elvira in questo spettacolo, insomma. E Zombitudine invece è uno spettacolo che noi, è il nostro precedente spettacolo a due, scritto e diretto da entrambi, e diciamo, utilizza la metafora, diciamo, la semplice ma anche larga, insomma, metafora del polivalente dello zombie come immagine di lettura del presente, che è sempre quello di cui parlavo prima quando parlavo di Aldo Morto. C'è un presente, diciamo, confuso, impotente, in cui sembra che non succeda niente, in cui stiamo a parlare a parlare, fare, non succede nulla, insomma, se vogliamo dire così. E lo zombie, dicevo, è una figura che l'abbiamo inteso come polivalente, nel senso che per noi l'immagine sia positiva che negativa, sia dire, l'immagine della fine del mondo, quindi di qualcosa che palingeneticamente spazi via tutta questa merda che da cui non riusciamo a, cioè, tipo una specie di Deus ex machina non potendoci salvare distrugga tutto, oppure come un'immagine di speranza, nel senso di diciamo lo zombie è un cadavere che cammina, ma è sempre meglio di, è sempre un'alternativa, è una specie di vita rispetto a sentirsi un cadavere immobile che marcisce sul posto, insomma, almeno va da qualche parte, cioè è un'approssimazione alla risurrezione, come figura, quindi in sé contiene anche una potenzialità di anche nella sua lentezza, siamo per lo zombie romeriano degli anni 70, però per lo zombie retro, anche nella sua lentezza, è una potenziale, come dire, già in quella alternativa a un mondo che ci circonda. Non riusciamo più. Ora ho accumulato in 4 minuti, ho accumulato 3 milioni di parole, però non so quanto chiaro, ma spero fossero vitali. Allora, ricordiamo questo appuntamento con la rassegna, la personale dedicata alla compagnia Frosini Timpano al Teatro India da oggi, martedì 28 febbraio, fino al 5 marzo. Un abbraccio e speriamo a presto qui. Speriamo, ci sentiamo stritolati. Grazie dell'abbraccio. A presto, ciao cari. Ciao, un saluto. Ciao.